di Mars. Dico il nostro incontro al centro, tu poggiata sui ginocchi e vento di capelli sui tuoi occhi. Qui l'ombra cade giù dalla tua mano, un orizzonte di cane abbaia da lontano, tu aggrappata alla ringhiera di una tenera e distratta primavera. Pomeriggio lento, un po' svogliato, ma già andato via, un dito sotto il mento e gli uccelli fuggono filando il verde dove la città si perde. Sopra un foglio di carta vetrata, luglio e tu sdraiata, tu sporca di pace e sabbia, cerca le labbra smisurate dell'estate sulle mie. In quest'altra stiamo insieme come ridi di gusti, e fino a soffocarti io stringevo agosto e te, bevendoti con gli occhi miei per non scordarti. E ancora tu tra file di alberi che cuciono colline di uva bianca, e tu sei stanca un giorno intero a bere vino, e un contadino col bicchiere in mano lì vicino. Foglie arrugginite in fondo al viale e nuove voglie, tu qui sei venuta a male, la tua faccia un po' tirata e una risata senza più allegria in coscienza. L'aria acerba della domenica mattina sopra l'erba, tu e lacrime di brina, guance colorate mentre sbucci arance, stupide bugie. Ferma lì, non muoverti, sorridi un po', adesso voltati. Fai così e appoggiati, non dire no, amore, guarda qui. Quella sera che scavava il nostro addio e scappava, la pioggia fina salta sopra i marciapiedi, noi a moschine, tu guardi ma non vedi che è finita, e tra le dita non ci sono che fotografie. Un azzurro scalzo in cielo, il cielo matto di morso, di quel nostro incontro al centro, tu poggiata sui ginocchi e gli occhi tuoi per sempre nei miei occhi.